Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su Controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, 147esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. È domenica 26 gennaio 2014. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per la parte tecnica ringraziamo Francesco Azzurri e per le selezioni musicali Lorenzo Ranfagni e Giona Vinti. Minuto per il consueto sommario della trasmissione di oggi. Per la rubrica Visti da vicino oggi incontreremo la triste storia di una gibbona che si trova da sola, purtroppo, nel parco dell'Abatino, senza un suo consimile con cui dividere il dolore della prigionia. Per l'attualità la nostra Roberta Marino ha assistito per noi a una serata con proiezione organizzata da Sea Shepherd. Torneremo sul sito internet Happy Cow, una community essenziale per rintracciare ovunque vi troviate nel mondo, locali, ristoranti, attività varie connesse con il mondo vegano e vegetariano. Per la rubrica letteraria Perle agli umani, la nostra Valentina Reggioli recensisce il grande fenomeno di successo Peppa Pig. Sostiene Vallauri, la nostra rubrica filosofica, torna quest'oggi sul caso di Caterina Simonsen. E per il pasto gentile ci sarà una grande dolcezza servita dal nostro vegan chef Gabriele Palloni. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Che gibbone. Eccola, vediamo, appesa a un palo. Eccola che arriva scendendo, aggrappandosi a questo palo orizzontale rispetto al terreno, lanciandosi da una mano all'altra in avanti a queste mani enormi, dunque sì, portentose. Ha circa 24 anni. Lei anche lì è arrivata, è stata sequestrata, cioè qui da una decina d'anni. E adesso convive con un gruppo di fascicularis, di altre scimmie che provengono dalla sperimentazione invece. Che sono più piccole in Italia. Sono più piccole. Qui in questa voliera c'è anche un tasso, una volpe non lo so perché l'abbiamo messa, l'ho più vista, quindi probabilmente se n'è andata via. Convivono facilmente, quindi... Ma lei addirittura questi... ho visto grumare il tasso. Ah, insomma, quindi un proprio una confidenza. E quando c'era anche la volpe lo stesso, quindi un fortunato punto di collaborano. Vista. Collaborano, sì. Lancia delle grida portentose questo. Sì, questo è proprio, lo, anche i gibboni, vale il discorso per tanti altri primati, anche direi anche più grave dal punto di vista delle loro speranze di sopravvivenza, sono molto ridotte, causa sempre deforestazione, alterazione dell'ambiente, quindi i prossimi anni saranno decisivi per la sopravvivenza di queste popolazioni nell'ambiente naturale. Direi che sono delle, infatti stanno in appendice A, sono specie fortemente minacciate. Erano presenti anche nel sud della Cina, ma già da una decina d'anni mi pare che non ci sono più esemplari. Si è provato anche a riforestare, ma allora si adattano a vivere sulle cime di alberi molto alti, quindi anche alberi diciamo di altezza media non sono sufficienti a ripristinare quelle che sono le condizioni delle loro habitat. Quindi dove sono concentrati ora in natura? In Indonesia. Indonesia. Sì. Ma c'è chi dice che insomma nei prossimi 20-30 anni e poi in natura non ne troveremo, insomma diciamo i pessimisti, qualche ottimista gli dà qualche decennio in più, però se persistono le attuali condizioni... Il destino è segnato. Sì. Parliamo tra l'altro di scimmie antropomorfe in questo caso, in cui la vicinanza con l'uomo è forte. È forte, sì. Questo è il suo commento. Soprattutto la faccia è veramente... È impressionante. Siamo noi, no? Assolutamente. Anche una mimica. Questo è il suo saluto, molto, molto cantato, direi. Molleggiatissima, ma nello stesso tempo esprime una certa potenza quando si è lanciata, sì, contro la rete. Sì, soprattutto se si osservano i canini, poi si vede. Sì, una boccuccia di rosa, niente male. Una vocazione lirica abbastanza evidente. Dunque loro non vivono in gruppi, quindi abbiamo delle coppie in natura e praticamente la loro presenza viene segnalata proprio da questo tipo di emissione di suoni. Beh, perché bisogna immaginarle, insomma... In genere non si vede un occhio perché vivono nella foresta, in cima agli alberi, quindi è proprio il suono quello che permette di localizzarsi vicendevolmente. Fa un po' impressione la sua solitudine, forse ci vorrebbe una compagna. Dunque è difficile trovare, perché non è che sono disposti a accettare chiunque. Selezionano, come noi. Poi, certo, selezionano tanto. E poi insomma bisognerebbe trovare l'occasione che se capita in qualche struttura che c'è un altro individuo espulso e che quindi poi c'è la possibilità di tentare di metterli insieme. Tra l'altro ci sono degli aspetti anche problematici, cioè nel senso che sì, noi diamo l'ospitalità a questi animali che erano, insomma, non c'erano alternative e quindi gli garantiamo a vita una sopravvivenza in questa struttura qua, però manca quello che insomma sarebbe importante realizzare, è una progettualità questo animale in appendice A, cioè nel senso che l'ideale sarebbe la possibilità di poter fare riprodurre questi animali una volta che uno si è accertato anche dal punto di vista genetico le loro compatibilità eccetera e fare progetti insomma di reinserimento o in ogni caso di mantenimento in attesa. Certe volte sembra quasi che sfugga la gravità del momento, cioè non stiamo parlando di quello che può succedere fra 200-300 anni, no, noi stiamo parlando di quello che succede da qui al 2050. Nei prossimi 50-60 anni probabilmente invece si ricostruiranno delle condizioni che sono compatibili con la loro presenza, non è che il futuro è quello di diciamo irreversibile, almeno speriamo che non lo sia, perché una volta che grazie anche agli apporti della tecnologia, della scienza eccetera si creano quelle condizioni che renderanno compatibili ambienti che adesso non lo sono, Ma c'è il rischio che a quel punto ci mancherà la materia prima, cioè dove le andiamo a prendere gli animali se si sono estinti? Notizie, interviste, attualità. Inizio il viaggio, il breve film documentario presentato a Milano il 9 gennaio in occasione della serata organizzata da Sea Shepherd a Palazzo Simbardi. Un viaggio lungo 500 anni nel quale la protagonista, o meglio le protagoniste, ci hanno fatto conoscere un mondo popolato da forme variopinte multicolori, pesci dalle tonalità cangianti e uno straordinario paesaggio sommerso dove ogni angolo riserva una nuova scoperta, una nuova avventura, ma anche i cambiamenti radicali e spesso devastanti operati dall'uomo. Protagoniste misteriose che solo alla fine di questo affascinante romantico viaggio si sono svelate. Non balene o delfini, neppure barche o appassionati di sub. Ma chi sono allora? Che sciocca! Ho dimenticato completamente di presentarmi. La mia compagna ed io siamo due molecole di acqua. Voi ci chiamereste H2O, ma... vi ho già detto che siete bravissimi a uccidere la poesia. In 500 dei vostri anni abbiamo percorso i 3 oceani in superficie. Avete modificato la circolazione aprendo nuove vie d'acqua. Avete cambiato il clima terrestre. Me ne rendo conto perché certe correnti, una volta precise come orologi, adesso tendono a rallentare. L'acqua calda si accumula e non scorre. Non ci raffreddiamo abbastanza per raggiungere il fondo. E tutto questo influenza il clima del vostro habitat. Sprofondo verso gli abissi. Se va tutto bene, ci risentiamo tra 500 anni, più o meno. Io sarò da qualche parte. E voi? L'autore del viaggio è, tra gli altri, il biologo marino e fotografo subacqueo Massimo Boyer, ospite della serata. Proprio lui ci ha spiegato come è nata l'idea di un film che narri un'avventura di due gocce d'acqua nelle profondità marine. L'idea in realtà è basata su una teoria scientifica, la teoria del conveyor belt, del nastro trasportatore, che dice appunto che in un tempo di 1000 anni una molecola d'acqua può fare tutto il giro del mondo, 500 anni in superficie attraversando tutti e tre gli oceani e poi sprofondando ripercorre a ritroso praticamente il cammino sul fondo degli oceani. Il film soprattutto mette in rilievo come gli oceani siano in un certo senso tutti collegati tra loro e come l'intervento umano in un qualsiasi punto si ripercuota inevitabilmente con un effetto domino interessando tutti gli oceani. Nel film si parla di correnti che vengono rallentate dalla modifica climatica, che amplificano questo cambiamento del clima, perché il Niño è dovuto a un rallentamento della controcorrente equatoriale e però si ripercuote causando incendi nel sud-est asiatico, causando correnti calde, diminuzione della pesca lungo le coste del Sud America, e di tutto questo alla fine noi siamo corresponsabili. Il film ha un punto di vista un pochino più ampio su tutti gli oceani, però siamo ovviamente interessati a tutti gli aspetti della vita marina. Recentemente ho scritto un romanzo intitolato Scilla, che racconta la storia di uno squalo bianco, cercando di entrare un pochino nel punto di vista dello squalo, cercando anche di provocare un pochino. Questo squalo si muove nel Mediterraneo suscitando il terrore e la persecuzione dei media. Ho cercato appunto anche di mettere in rilievo, accanto al rischio di estinzione che questi animali meravigliosi corrono, e questo è un dato oggettivo, anche appunto ho cercato di mettere in evidenza gli aspetti più soggettivi delle percezioni, della sensibilità di questi animali. Di squali parla Massimo Boie nel suo libro Scilla, ma di squali ne ha parlato anche un altro ospite della medesima serata, Marco Affronte, naturalista, svelandoci ogni segreto e gli innumerevoli tipi di questo animale tanto temuto, ma anche tanto decimato. Ad esempio, chi sapeva che esistono anche lo squalo goblin, o lo squalo volpe, o lo squalo zebra o leopardo, o il tagliabiscotti? E che esistono anche gli squali filtratori, che non si nutrono di prede, ma che anzi offrono un vero servizio al mare. Tanti generi, in parte sconosciuti, è vero, ma anche tanti in pericolo. Lo squalo abbattitore, ad esempio, è stato quasi cancellato dalla caccia indiscriminata negli ultimi 20 anni nell'Adriatico. E con lui quasi tutti sono ormai a rischio estinzione, perché vengono pescati per le loro pinne, considerate ancora una prelibatezza nei ristoranti esotici, o per la loro carne. Milioni di squali uccisi, così come balene, foche, delfini, tonno rosso. Per loro e per tutta la vita marina si battono i volontari di Sea Shepherd, come ha ricordato a conclusione della serata uno di loro. Sentiamolo. Sea Shepherd è fondamentalmente un'organizzazione abbastanza giovane, nonostante la data di nascita del 77. Adesso siamo in Antartico, proprio 3 giorni fa siamo riusciti a intercettare la flotta baleniera, siamo riusciti a portarla fuori dal 60° parallelo, e quindi fuori dal santuario. Ma è una battaglia lunga che durerà ancora 3 mesi, perché è realmente una battaglia a scacchi. Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali. Siete atterrati a Taipei e in valigia c'è carenza di stivali vegani? Terminata la Parigi-Dakar, vi assale un'incontenibile voglia di tofu? Nessun problema! La mucca felice, Happy Cow, non è solo uno dei nostri sogni, è anche un popolarissimo sito internet americano, che è forse la directory più vivace e aggiornata per quanto riguarda locali, mercati, negozi e attività varie amiche degli animali in tutto il mondo. Ho avuto la fortuna di incontrare Ken Spector, cofondatore di Happy Cow, e di mettere alla prova il mio arrugginito inglese, non senza un pizzico di vanità. So what's your name? My name is Ken Spector. Cofondatore e coproprietario del sito internet happycow.com, scritto HAPPYCOW.com. Ed è un sito internet che segnala posti per mangiare e anche negozi friendly con vegetariani e vegani. How does Happy Cow works? Happy Cow works whereby the audience or those viewing or look at the site help as a community to build up a very large directory of vegan and vegetarian businesses. We have in over 150 countries listings of these businesses. Quindi è una grande community, happycow.com, segnala non soltanto posti per mangiare, ma anche posti per dormire, bed and breakfast, e qualunque situazione che offre alternative per vegetariani e vegani in 150 paesi del mondo. How could people listening to us help happycow.com? Okay, first by going to happycow.com, if you, let's say, find a new restaurant that is vegan friendly, vegetarian, or vegan, you can let us know. We love to know these things. Once those businesses are listed on the site, they can then help us to review them and tell their friends about Happy Cow and build up the site that way. Andate su happycow.com e tutte le volte che trovate un ristorante, un negozio di scarpe, un albergo, un bed and breakfast, oppure anche un negozio di alimentari che offre alternative valide per vegetariani e vegani, lo potete segnalare. Inoltre, una volta che loro lo avranno pubblicato, potete mandare le vostre recensioni. A quel punto non soltanto sarà visibile quel posto, ma ci sarà anche dentro la vostra recensione. E poi parlate di happycow.com a tutti i vostri amici. And also, I was going to add, Happy Cow has been around for over 13 years. There's about a million people a month using the site right now. Wow. So it's very popular. HappyCow.com esiste da 13 anni e ha 1.5 milioni di persone che visitano ogni mese questo sito internet. One of the things that I love most about the site is while traveling, which we're doing right now, I can launch the app on iPhone or Android. And I can find veg-friendly businesses all over the world. So, for example, I can find a restaurant that's here. It's all by direction. So this is the closest vegan or vegetarian business near us. It's a grocery store. Then there's a vegetarian restaurant. And it's a very nice app. Un'altra cosa importantissima da dire è che su happycow.com c'è un'applicazione che potete scaricare per il vostro cellulare, Android o iPhone. Quindi voi andate su happycow.com, scaricate l'applicazione e automaticamente troverete nel vostro telefono in un attimo il più vicino negozio, il più vicino ristorante, il più vicino albergo, il più vicino business che sia amichevole, che offra alternative per vegetariani e vegani. And another thing is, when you have the app, you can go to a restaurant, click on the restaurant, take a picture of your food, upload the pictures and write a review right while you're eating at the restaurant or in the vegan or vegetarian friendly grocery store. E ovunque siate, attraverso l'applicazione potete fotografare il vostro piatto, fotografare il vostro paio di scarpe, fotografare la vostra scelta vegetariana o vegana e potete automaticamente uploadare questa fotografia nel sito internet e accanto ci sarà la vostra recensione. Quindi voi sarete in happycow.com. So please check out our website. It's very useful. It's useful for us and as we're traveling, it's useful for people all over the world. Quindi scaricate l'application, visitate il sito internet happycow.com dai vostri computer, possibilmente scaricate però l'applicazione nei vostri telefoni in modo da portarvelo dietro e poterlo utilizzare ovunque voi siate. And we are loving the vegan food right here in Italy. Il cibo vegano qui in Italia è squisito. Thank you for letting us know about happycow.com. Ken Spector, restiamo animali? Restiamo animali. You're a really good translator. Suoniamo un accordo canticchiando la canzone con un bing e un bong e un bing. Bong bing boom, bing bong bing, bing bong bing li bong li boom. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Girano le ruote della corriera, giran giran da mane a sera. Sono sempre stata un'appassionata di cartoni animati, soprattutto quando come personaggio principale c'era un animale. Uno dei miei cartoni preferiti era Belle e Sébastien, di cui peraltro dovrebbe uscire a breve il film, che raccontava della straordinaria amicizia fra un bambino ed il suo enorme cane bianco. E poi c'era la Pimpa, altra mia grande passione da piccina. Sarà un caso, ma uno dei miei tre attuali cani è spiccicata, stesse macchie e stesse orecchie morbide. Quindi quando le mie nipoti guardano i cartoni spesso rimango imbambolata con loro davanti alla TV. Quando però la nipote piccola mi ha fatto vedere il nuovo tormentone idolo dei bambini dai 2 ai 4 anni, sono rimasta un po' perplessa. Questo nuovo capolavoro si intitola Peppa Pig ed il personaggio principale è appunto Peppa, una maialina con le gotine rosse ed il vestitino lungo. Inventata in Inghilterra è subito diventata un idolo dei piccini viste le storie divertenti in cui viene coinvolta. Peppa Pig va a scuola assieme a fratellino George, ghiotto di torte al cioccolato e vive con Papa Pig, campione di salto delle pozzanghere, e Mamma Pig, casalinga che lavora a casa col suo computer. Gli amici del cuore di Peppa sono Rebecca Coniglia, Susie la pecora, Pietro il pony e tanti altri ancora. Solo ogni tanto ci si ricorda che Peppa è una maialina, perché fra un compito e l'altro le scappa un simpatico grugnito. Partendo dal presupposto che umanizzare gli animali, solo i mammiferi però, specisti fra gli specisti, non va mai bene perché snatura la realtà e spesso spinge, una volta divenuti adulti, a portare il cane alla spa, La scelta di usare animali detti dal reddito come personaggi ideali di questa cittadina ideale è tremendamente fuorviante. Vediamo animali felici che passano la loro intera vita all'aria aperta, in belle case, cuccioli che vanno a scuola, giocano liberi con gli amici e mentre si scambiano coccole coi genitori. Condizione così lontana dalla realtà degli allevamenti e dei macelli. Lì il maialino viene strappato dalla mamma, perché in quegli spazi angusti in cui sono relegati, altro che prati verdi, verrebbero schiacciati dalla ciccia della mamma gonfia di ormoni. Al maialino dal latte vengono tolti i testicoli e i denti senza anestesia, in cui il cane viene tenuto a catena e viene bastonato. Il coniglio viene spellato vivo per fare bordi dei giubbotti alla moda, in cui la pecora viene violentata per farle fare un agnellino che non potrà mai allattare, perché il suo latte serve a dei poppanti umani cresciuti male. E tuttavia ogni riferimento alla realtà delle cose è fortemente evitato. E per bambini così piccoli, cogliere la differenza che corre fra la finzione e la realtà è semplicemente impossibile. Un po' come quando leggevo i fumetti di Topolino, e mi pareva normale che lo zio Paperone e Paperino avessero come pranzo domenicale il pollo arrosto con le patate. Ed è questa la tragedia, perché sono convinta che se i bambini riuscissero a fare il collegamento fra l'animale e il contenuto del proprio piatto, non potrebbero che smettere di mangiarne. D'altra parte, fra la carota e il coniglio vivo, il bambino non avrebbe dubbi su cosa mangiare. Che dire, alcune associazioni animaliste hanno proposto di censurare la Peppa proprio perché dà un'idea dell'animale ideale, ed è tutt'altro che vera. Io credo che, anziché spegnere la TV alla nipote, la prossima volta che andrò a pranzo dai miei le dirò che la salsiccia o bistecca che sta mangiando altri non è che la Peppa. Prevedo litigi familiari, ma anche una nipote che smette di mangiare maiali. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La ricetta di oggi è quella dei muffin, cioccolato e arancio. Iniziamo subito con gli ingredienti. Per 6 muffin occorre un arancio biologico, perché poi andremo a utilizzare anche la buccia, 100 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, un cucchiaio di cacao amaro in polvere, mezza bustina di lievito, 100 g di zucchero di canna, 50 mg di olio di semi di girasole, 100 g di acqua e un po' di cannella in polvere. Prendiamo il nostro bicchiere del frullatore ad immersione e mettiamoci l'acqua, l'arancio tagliato a quadretti compreso di buccia, lo zucchero e l'olio e un pizzico di sale. Emulsionate bene per un paio di minuti con il frullatore ad immersione fino a quando l'arancio si sarà completamente frullato. Versate il composto in un recipiente e unite la farina, la fecola, il cacao in polvere e il lievito precedentemente setacciati. Amalgamate bene con una frusta e versate 2 cucchiai di impasto per ogni stampino per muffin che avrete foderato con l'apposito pirottino di carta forno. Fate cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa mezz'ora. Sfornateli e servite con una spolverata di cacao amaro sopra. Se vi foste persi ingredienti, procedimento, la ricetta intera, non vi preoccupate perché potete ritrovare tutto sul nostro blog, che è restiamoanimali.wordpress.com. Quindi buon appetito e buona sperimentazione in questa cucina senza crudeltà. E aspetto i vostri feedback. Se avete domande, curiosità, foto anche delle vostre prestazioni culinarie, basta mandare un'email a restiamoanimali@controradio.it. Vi aspetto domenica prossima, l'appuntamento è sempre su Controradio nella rubrica Il Pasto Gentile. Sostiene Vallauri. Torniamo oggi ad occuparci con il professor Luigi Lombardi Vallauri del caso di Caterina Simonsen, la giovane studentessa di veterinaria che si è dichiarata qualche settimana fa a favore della sperimentazione animale, scatenando un vero caso mediatico dopo gli insulti ricevuti sul suo profilo Facebook. Colpisce in questa vicenda che proprio una ragazza affetta da una grave malattia sia stata il veicolo di una discussione, di un dibattito, di una polemica che dovrebbe avere sempre caratteri scientifici ed etici. Professor Luigi Lombardi Vallauri, che impressione le ha fatto questa polemica? Ma io non seguo i media per igiene mentale, quindi cerco di riflettere con la mia testa e penso che il caso rilevante sia quello della vera vivisezione, cioè di quegli esperimenti dolorosi, letali, che non si farebbero mai sugli uomini, che si sperimenti un po' su animali e su volontari umani entro certi limiti non mi scandalizza. Allora, su questi esperimenti spaventosi, io credo che si devono distinguere tre dimensioni: la dimensione scientifica, la dimensione etica e quella giuridica. Scientificamente, da una ventina d'anni, sempre più medici e associazioni di medici contestano il valore della sperimentazione su animali perché non si passa dal modello animale al modello umano. Sul piano etico, direi, c'è una specie di paradosso: più la sperimentazione è scientifica e meno è etica, almeno per gli animalisti, perché è tanto più probante quanto più il modello animale è simile all'uomo. Non c'è niente di più probante della sperimentazione sull'uomo. La sperimentazione sull'uomo, che è sommamente scientifica, non si fa per motivi etici. E devo dire che la coscienza sociale e quella degli specialisti dell'etica anche qui si muove verso sempre più animalismo. Lo stesso vale del diritto. Avevamo già il decreto legislativo 116 del 92 che stabiliva il principio di residualità. Per fare esperimenti su animali bisogna dimostrare al ministero che non ci sono alternative. E questo, guardate, sul piano scientifico è veramente difficilissimo. Quindi in tutte e tre le dimensioni, scientifica, etica, giuridica, il trend è decisamente verso i metodi alternativi. Anche la legge europea dice espressamente si deve sperimentare sempre meno su animali e incentivare economicamente sempre più i metodi alternativi. Al centro di Varese l'Unione Europea fa soltanto metodi non su animali. Detto questo, io capisco che una poveretta malata e forse erroneamente convinta che non sarebbe in vita senza la sperimentazione sugli animali dica quello che ha detto. Un po' meno capisco tutti questi studiosi, ricercatori che campano sulla sperimentazione, capitanati dal professore Garattini, perché secondo me dovrebbero rivolgere ormai tutte le loro forze agli altri metodi. Se la sperimentazione su animali fosse non scientifica, il problema a poco non si porrebbe più. Per il professore di etica quello che è interessante è l'ipotesi che invece sia veramente utile. Le tre obiezioni di coscienza legali nel nostro ordinamento sono quella all'aborto, quella al servizio militare e quella alla sperimentazione animale. Ora, se non c'è più la guerra, non c'è più bisogno dell'obiezione di coscienza al militare, per esempio. Se la medicina non pone più l'alternativa o vita del feto o vita della mamma, non c'è più problema anche lì di obiezione di coscienza. Ma facciamo un momento l'ipotesi, lo scenario che sia veramente utilissima. Ecco, in questo caso, davanti alla sperimentazione animale terribile, alla vivisezione utilissima, si approda, secondo me, a quello che io chiamo il dolorosamente perplesso. E quindi, in un certo senso, rispetterei gli uni e gli altri. Soprattutto forse rispetterei quelli che dicono preferisco a mie spese il non ricorso alla sperimentazione. Però io credo che anche quella ragazza abbia fatto il passo un po' più lungo della gamba. Cioè, è vero che finora tutti, diciamo pure tutti, i medicinali che hanno avuto successo tra gli uomini sono stati testati su animali, supponiamolo. Beh, Bisogna anche dire che almeno fino a poco tempo fa tutti i medicinali che avevano avuto successo tra gli uomini erano stati testati da maschi. Ora ci sono dei residui storici che a un certo punto sono superati. Da quando anche le donne fanno test, non è più detto che uno si salva la vita solo se usa medicinali testati da maschi. La mia impressione è che sia andata un po' così, cioè la vera prova che un medicinale funziona è quando poi la distribuisci tra gli uomini. Ci sono medicinali testati su animali che hanno fatto disastri e altri che sono andati bene. Quindi quella lì magari ha detto delle cose che scientificamente sono poco fondate. A questo punto, visto i tre grandi trend, specialmente quello scientifico, io mi auguro che personaggi come il professore Garattini diventino sempre più simili a quel cannoniere tedesco che difendeva le alture di Monte Cassino da migliaia di americani, aveva un cannone, lo tirava con un asinello e lo spostava sparando da diversi punti del crinale, dando l'impressione che era tutto pieno di tedeschi. Io gli auguro sinceramente a Garattini di diventare l'unico che spara ancora il cannone della vivisezione. Vogliamo segnalare che la rivista di cucina mensile Sale e Pepe è uscito eccezionalmente con un numero dedicato alla cucina vegana. Tra gli chef protagonisti di questo numero speciale di Sale e Pepe c'è anche il nostro vegan chef Gabriele Palloni. Invitiamo quindi tutti ad acquistare questa rivista, soprattutto perché, se avrà successo, la Mondadori, casa editrice di Sale e Pepe, con la sua grande potenza distributiva, potrebbe dare vita, nella migliore delle ipotesi, a una rivista Sale e Pepe Vegan. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog, che non è più restiamoanimali.wordpress.com ma è restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.